E lascio lo scrano ad uno strano beone losco selva bescoli belone bosco selva bescoli, beone bosco losco selva dico Il buffone di corte diventa torto dittatore. Il dottore dice che non v'è nulla da fare. Non è Lucifero il salvatore che promette la libertà al popolo ormai schiavo. Schiavo. Schiavo. Pape Satan lo benedice, incoronandolo. Perseverare umano, scrive e riscrive la storia, perché questa memoria non venga rimossa. Avanti, popolo, alla riscossa! Guarda in camera.